Letture di Radio 24. Nei supermercati arriva il kebab. I comuni fanno le ordinanze per la lotta al kebab. L'industria si è accorta che il kebab supera l'hot dog e lo ha adottato. La politica è rimasta ferma al palo, faticando a selezionare le vere battaglie su cui riflettere. Una piccola storia su cui soffermarsi, sulla politica nuovamente sorpassata. La Beretta Salumi, con più di 500 milioni di fatturato, è la terza azienda italiana del settore. E in questi giorni ha preso una decisione che definire innovativa è forse poco. Ha lanciato sul mercato un prodotto kebab in vaschetta. Si tratta di un arrosto di fesa di vitello e tacchino, aromatizzato con le erbe della tradizione medio orientale. La motivazione commerciale del lancio è che il kebab è ormai diventato un protagonista dello street food, il cibo da strada, e risulta sempre più gradito agli italiani. E in effetti basta osservare con attenzione le kebaberie presenti in tutte le città d'Italia. A Milano la stima è di 200 negozi e potrebbe nascere addirittura un asso kebab. Per constatare come ormai contino su una clientela mista composta da italiani e da stranieri. I nostri connazionali, buongustai per antonomasia, non hanno mai veramente adottato l'hot dog della pur leggendaria narrazione Yankee. E invece si sono fatti conquistare, seppur temporaneamente, dalla novità rappresentata dal kebab. L'industria se ne è accorta e si è mossa con tempestività. Chapeau! Alla velocità della cultura imprenditoriale fa però da contraltare la straordinaria lentezza della politica, che fatica a selezionare le buone cause da quelle senza costrutto. Nel nord Italia non si contano le amministrazioni che si sono impegnate in una strenua quanto vana lotta contro il kebab, cercando di limitare le licenze e imponendo agli esercenti extracomunitari orari anti-business. Proprio in queste ore, il TAR ha bocciato il comune di Bergamo che aveva imposto a una paninoteca etnica la chiusura a partire dalle 16 del sabato fino a tutta la domenica. Il caso vuole poi che una delle amministrazioni più impegnate nell'offensiva contro lo street food arabo sia quella di Capriate San Gervasio, un paese in provincia di Bergamo separato solo da un ponte, da quell'attrezzo d'adda che ospita gli stabilimenti della Beretta. Al di là del ponte, il kebab è avversato e bandito. Al di qua, diventa gloria e vanto del talento commerciale di uno dei big della salumeria made in Italy. Volendo, è una piccola storia su cui riflettere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il kebab arriva nei supermercati e il business sorpassa la politica, di Dario Di Vico, dal Corriere della Sera di domenica 22 maggio. Letture di Radio 24. Paolo Giaccone era medico, direttore dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Universitario di Palermo. È stato ucciso da Cosa Nostra per non avere accettato di falsificare una perizia che avrebbe incastrato un killer della mafia. Alcuni giorni fa l'INPDAP e la Prefettura di Palermo hanno comunicato alla figlia Camilla la sospensione del vitalizio per i parenti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo mafioso, perché il padre non sarebbe vittima del terrorismo mafioso, ma solo vittima della criminalità organizzata. Storie di giudici, di eroi e di uomini comuni diventati simboli di una lotta e di un'epoca. Il ventennio tra gli anni 80 e gli anni 90 è per tutti un periodo di anni bui, di mafia e di grandi personaggi. Come Paolo Giaccone, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Palermo, ucciso l'11 agosto del 1982 nei pressi del Policlinico, oggi a lui dedicato. Pochi giorni prima della strage di via Isidoro Carini, che avrebbe fermato l'impegno del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel vialetto alberato accanto al Policlinico, una 126 aspetta l'arrivo di Giaccone. Dentro l'auto c'è anche Salvatore Ruotolo, riconosciuto poi come esecutore materiale dell'omicidio e condannato all'ergastolo al primo maxi processo a Cosa Nostra. È lui che si avvicina al medico, freddandolo con tre pallottole sparate a distanza ravvicinata. Giaccone aveva ricevuto l'incarico di esaminare un'impronta digitale lasciata dai killer che nel dicembre del 1981 avevano scatenato una sparatoria a Bagheria, lasciandosi dietro una scia di morti. L'impronta apparteneva a un killer di Corso dei Mille e quella sarebbe stata l'unica prova che poteva incastrarlo. Per questo il medico fu messo sotto pressione affinché aggiustasse le conclusioni della perizia dattiloscopica. Rifiutò. Il killer fu condannato all'ergastolo e Giaccone pagò con la vita. Un delitto mafioso, dunque, per il quale nel 1995 la Corte d'Appello condannò anche altri 10 componenti della cupola mafiosa, identificando poi tra i mandanti anche Totò Riina e Bernardo Provenzano. Sono passati 28 anni da quel giorno e l'omicidio di Paolo Giaccone è ancora ricordato come un delitto mafioso, ma qualcosa è cambiato. Sua figlia Camilla non è infatti più considerata come vittima di mafia perché il padre non è vittima del terrorismo mafioso. Specializzata come il padre in medicina legale, nel maggio del 2010 l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo comunicò a Camilla che grazie alla legge che tutela le vittime di mafia avrebbe potuto utilizzare le procedure anticipate iniziando a percepire la pensione a partire dal 1 aprile 2011. Pochi giorni fa, invece, la telefonata dagli uffici di previdenza per i pubblici dipendenti che le comunicano la revoca della pensione. Lo Stato considera Paolo Giaccone come vittima della criminalità, ma non del terrorismo. La conferma è arrivata anche dal viceprefetto di Palermo, Maria Pedone, che senza grandi spiegazioni, dice Camilla al Riformista, mi ha confermato che non posso essere considerata familiare vittima di mafia. Discrepanze risolte con decreti ad hoc e con la mortificazione delle vittime e delle loro famiglie, ha detto al Riformista Sonia Alfano, europarlamentare e presidente dell'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Mafia, che dopo le denunce di Camilla Giaccone ribadisce come bisogna porre fine a questo stillicidio perché i familiari ne soffrono e perché è assurdo fare distinzioni tra vittime. Un solco rappresentato da due leggi, la 204 e la legge 402, per cui si finisce col farsi le guerre tra poveri, continua l'Alfano. Due leggi che hanno due nomi simili ma sono diverse, sebbene le vittime siano uguali. Avevo 23 anni all'epoca, ero studente in medicina e sapevo riconoscere un colpo di grazia, dice Camilla che quel giorno avrebbe dovuto essere con il padre. Facevamo ogni mattina insieme quel tragitto da casa all'ospedale. Lui era professore, io studentessa di medicina, racconta al telefono. Quella mattina, invece, rimase a casa per un mal di pancia della madre. Si salvò, ma riconobbe subito cosa era accaduto al padre quando lo vide sull'asfalto vicino al policlinico. Anche per questo, oggi, a sentirsi vittima della burocrazia, ma soprattutto di una memoria violata e negata all'evidenza dei fatti, è proprio lei che in queste ore racconta come quelle terribili giornate le rivedo davanti agli occhi e il lutto è vissuto come fosse plurimo, che si è ripetuto. Appresa la notizia, il parlamentare Salvino Caputo ha reso nota la vicenda presentando una interrogazione parlamentare al governo e alla regione, chiedendo l'intervento del ministro dell'Interno Roberto Maroni. Siamo di fronte ad una vicenda paradossale, ha detto Caputo, che offende la memoria di chi ha sacrificato la propria vita in difesa della legalità. Sulla questione, anche la prefettura e l'ente pensionistico INPDAP saranno chiamati a fare luce al più presto, e non per una questione meramente economica, dice Camilla Giaccone, ma perché pretendo rispetto per la figura coraggiosa di un uomo come mio padre. Intanto, ritornerò a lavorare, conclude Camilla, ma quello che continuerò a domandarmi veramente è perché si debba pensare che esistano vittime della criminalità organizzata di serie A e di serie B. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Vittima di mafia, niente pensione, di Chiara Privitera, da Il Riformista di giovedì 19 maggio.